Mentre la foschia della sera si alza, i confini della città, visti dall'alto, si confondono con i campi circostanti. Tra tutti gli edifici che scorrono sotto lo sguardo, ne noto uno particolarmente imponente: è la sede del seminario cittadino. Maestoso e con una sua severa eleganza, si nota tra gli altri per estensione e forse anche per una certa grandiosità. Si tratta, probabilmente, di uno dei pezzi di pietra più importanti della città, uno di quelli che più ne ha determinato le sorti. Testimonianza della presenza molto antica di una comunità di carmelitani in città, il seminario sorge dove, in origine, vi era solo una chiesetta, bellissima, edificata proprio per il volere di quest'ordine monastico e dedicata alla Madonna del Carmelo. Ben presto, i carmelitani sentirono l'esigenza di includere alla struttura, come spesso facevano, anche una biblioteca ed un convento. Ci volle poco, allora, perché l'edificio divenisse un riferimento culturale e sociale, oltre che religioso, per tutta la comunità. La biblioteca venne ampliata con il tempo fino a diventare, e lo è tuttora, la biblioteca della diocesi. A partire dal 1839, in una terra e in un tempo in cui le scuole e i centri culturali, pubblici o privati che fossero, erano un impensabile miraggio, alla biblioteca fu associato un seminario, luogo di educazione culturale e religiosa. La presenza di un seminario di così lunga tradizione non fa che confermare la storia di Andria e la sua natura di borgo feudale. Non meno dei castelli, infatti, monasteri e conventi erano distribuiti sul territorio del feudo, conferivano lustro e prestigio al territorio e garantivano stabilità e autorevolezza alla diocesi, che attingeva così alle fila dei giovani più abbienti, più nobili e più influenti della città, per formare generazioni e generazioni di uomini di chiesa e ovviamente di potere. Era la logica del maggiorasco propria delle famiglie aristocratiche. Il primogenito ereditava tutto il patrimonio familiare. Gli altri figli ne restavano esclusi e spesso venivano avviati alla vita monastica affinché fosse loro garantita un'esistenza parimenti privilegiata e dignitosa. Si stipulava allora un vero e proprio accordo. Un atto notarile definiva entità e termini di consegna di una dote, spesso fatta di beni immobili e terre, in favore della chiesa, dote a cui il secondogenito rinunciava insieme ad ogni altro diritto sull'eredità dei genitori, senza riserva alcuna. Quando una legge del 1867 soppresse i conventi e gli enti religiosi secolari, ritenuti superflui dallo Stato, il clero del Sud cadde in disgrazia. Finirono i privilegi e con essi le concessioni delle ricche famiglie nobili. I seminari, invece, rimasero, ma cambiarono di segno e di scopo. Non più incubatori di figli cadetti e dei loro beni e prestigi, ma riferimento preziosissimo per i ceti poco o nulla abbienti della comunità. Luogo che garantiva l'istruzione e dunque anche un'alternativa ai campi o alla delinquenza in cambio di una modesta retta. Erano anni distanti dalla scolarizzazione statale. Miseria e lavoro minorile erano l'amara norma. Il vuoto dello Stato lo riempivano le biblioteche diocesane, i seminari, gli oratori, punto di riferimento per l'intera comunità. La Chiesa, qui al Sud, è stata freno e rifugio, dice Annina, segnandosi nuovamente la croce sul viso.